Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario del dottor Seward. 29 ottobre. Scrivo questo sul treno che ci porta da Varna a Galati. Ieri sera ci siamo riuniti tutti poco prima del tramonto. Ognuno di noi aveva fatto il suo lavoro come meglio aveva potuto, per quanto valgano pensiero, sforzo e circostanze favorevoli. Siamo preparati sia per l'intero nostro viaggio, sia per la nostra impresa quando saremo giunti a Galati. Quando è arrivato il momento abituale, la signora Harker si è predisposta all'ipnosi ed è caduta in trance dopo uno sforzo da parte di Van Helsing più lungo e più faticoso di quanto non fosse necessario di solito. In generale basta un accenno per farla parlare, ma questa volta il professore ha dovuto rivolgerle domande e con grande risolutezza prima che sentissimo qualcosa. Infine la risposta è venuta. Non sento niente. Siamo fermi. Non c'è sciabordio di onde, ma soltanto un costante turbinio di acqua che scivola leggermente contro la prua. Odo voci di uomini che chiamano vicine e lontane e il rumore di remi che girano e scricchiolano sugli scalmi. Un fucile spara da qualche parte, una eco assai distante. Sopra di me uno scalpiccio di piedi e corde, catene trascinate. Ma che è questo? C'è un barlume di luce e sento un soffio di aria su di me. A questo punto si è interrotta. Poi si è rizzata impulsivamente dal divano su cui stava distesa e ha sollevato entrambe le mani, palme in su, come se spingesse in alto un peso. Van Helsing e io ci siamo scambiati un'occhiata di comprensione. Quincy, alzando leggermente le sopracciglia, l'ha guardata intensamente, mentre la mano di Harker si chiudeva distinto sull'impugnatura del suo coltello Kukri. È seguita una lunga pausa. Sapevamo tutti che il momento in cui essa poteva parlare stava passando, ma ci rendevamo conto dell'inutilità di dire qualsiasi cosa. D'un tratto la signora Harker è balzata a sedere e, aprendo gli occhi, ha domandato con cocciolezza: «Nessuno di voi desidera una tazza di tè? Dovete essere tutti così stanchi?» Sapendo di farla contenta, abbiamo accettato. Essa è andata a preparare il tè e, quando è uscita, Van Helsing ha detto: «Vedete, amici miei, lui è vicino a terra. Ha lasciato sua cassa, ma deve ancora andare a riva. Durante la notte può giacere nascosto in qualche parte, ma se non è portato a riva o la nave non tocca essa, lui non può raggiungere terra. In questo caso può, se è di notte, cambiare la sua forma e saltare o volare su sponda, come ha fatto a Whitby. Ma se il giorno spunta prima che lui è su riva, allora lui non può scappare, a meno che non è portato. E se è portato, allora gli uomini di Dogana possono scoprire quello che contiene cassa. Infine, dunque, se lui non scappa a riva questa notte o prima di alba, lui perde così la giornata intera. Noi possiamo allora arrivare in tempo, perché se lui non scappa di notte, noi gli piombiamo addosso di giorno, quando lui è chiuso in cassa e a nostra mercé, perché lui non osa essere suo vero io, sveglio e visibile, per paura che viene scoperto». Diario di Jonathan Harker. 30 ottobre. Alle 9 il dottor Van Helsing, il dottor Seward e io siamo andati dai signori Mackenzie e Steinkopf, gli agenti della ditta Hapgood di Londra. Essi avevano ricevuto un telegramma da Londra, la risposta alla richiesta telegrafica di Lord Godalming, in cui si diceva loro di prestarci tutto l'aiuto possibile. Sono stati gentilissimi e premurosi e ci hanno accompagnati subito a bordo della zarina Caterina, che si trova agli ormeggi nel porto fluviale. Lì abbiamo conosciuto il capitano, di nome Donaldson, il quale ci ha parlato del suo viaggio. Ci ha detto che in tutta la sua vita non aveva mai avuto una navigazione così favorevole. Per dinci, si è messo a raccontare. Ci aveva perfino spavento, perché ci aspettavamo di pagarla cara con qualche scalogna speciale, tanto per stare dentro nella media. Mica succede tutti i giorni di filare da Londra al Mar Nero col vento in poppa, come se fosse il diavolo in persona a soffiare sulle vele per qualche motivo suo. Ogni tanto non si poteva vedere un bel niente. Appena che si era vicini a una nave, un porto, a un promontorio, ci capitava addosso una nebbia che viaggiava con noi, e finché non si era levata, guardavamo senza vedere un diavolo di niente. Siamo passati da Gibilterra senza neanche poter fare una segnalazione, e finché non siamo arrivati ai Dardanelli, dove dovevamo aspettare il nostro permesso di transito, non abbiamo mai avuto nessuno vicino. Da principio avevo una mezza idea di mollare le vele e bordeggiare finché non si alzava la nebbia, ma poi mi è venuto in mente che se il diavolo voleva farci raggiungere il Mar Nero di volata, probabilmente ci sarebbe riuscito che noi lo volessimo o no. E poi, se filavamo veloci, mica andava a nostro discredito con gli armatori e non faceva danno al nostro traffico. E il vecchio demonio che aveva ottenuto il suo scopo ci sarebbe stato piuttosto grato di non avergli fatto ostacolo. Questo miscuglio di semplicità e di astuzia, di superstizione e mentalità commerciale ha destato l'interesse di Van Helsing, il quale ha detto: «Mio amico, quel diavolo è più intelligente di quello che credono certi e sa quando che incontra uno a suo pari». Il capitano, a cui il complimento non è dispiaciuto, è andato avanti. Dopo che abbiamo passato il Bosforo, gli uomini hanno cominciato a brontolare e alcuni di loro, i romeni, sono venuti a domandare di buttare a mare una grande cassa che era stata portata a bordo da un vecchio di aspetto bizzarro poco prima che siamo partiti da Londra. Io avevo visto gli uomini spiare quel tizio e fargli le corna quando lo vedevano per proteggersi dal malocchio. Caspita, ma è perfettamente ridicola la superstizione degli stranieri. Io li ho rispediti al loro lavoro senza tanti complimenti, ma siccome subito dopo ci è calata addosso la nebbia, mi è venuto in mente che forse c'era qualche cosa, come pensavano loro, anche se non credevo io che si trattava della cassa. Bene, siamo andati avanti e avanti, e siccome la nebbia non ha cessato per 5 giorni, ho semplicemente lasciato che ci portasse il vento, perché se il diavolo voleva andare da qualche parte ci sarebbe arrivato comunque, e se poi non era così ci saremmo guardati intorno in ogni modo. Certo, abbiamo avuto un buon viaggio in alto mare per tutto il tempo, e 2 giorni fa, quando alla mattina il sole è sbucato fuori dalla nebbia, ci siamo trovati proprio nel fiume davanti a Galati. I romeni erano pazzi di rabbia e volevano che io, bene o male, tirassi fuori la cassa e la sbattessi nel fiume. Ho avuto da discutere con loro, e anche agitando un palanchino. E quando l'ultimo si è tirato su dal ponte tenendosi la testa tra le mani, io li avevo convinti che, malocchio o mica malocchio, le proprietà e la fiducia dei miei armatori stavano meglio nelle mie mani che nel fiume Danubio. E pensate che avevano portato la cassa sul ponte, pronti a sbatterla in acqua. E siccome sopra c'era scritto Galati via Varna, ho pensato che era meglio lasciarla lì per poi scaricarla nel porto e liberarcene del tutto. Quel giorno non abbiamo avuto da scaricare molto e abbiamo passato la notte all'ancora, ma alla mattina, una bella mattina, un'ora prima dello spuntare del sole, è salito a bordo un uomo con un ordine che gli era stato mandato dall'Inghilterra. Doveva ritirare una cassa indirizzata a un certo conte Dracula. Di sicuro la roba era preparata per lui. Le sue carte erano in regola e io sono stato ben contento di disfarmi di quel maledetto aggeggio, perché cominciavo io stesso a sentirmene infastidito. Se il diavolo aveva qualche bagaglio sulla nave, sto pensando che non doveva essere altro che quella cassa. «Come si chiamava l'uomo che ha ritirato cassa?» ha chiesto Van Helsing con entusiasmo controllato. «Ve lo dico subito», ha risposto il capitano, e dopo essere sceso nella sua cabina è ritornato esibendo una ricevuta firmata Immanuel Hildesheim. L'indirizzo era Burgenstrasse 16. Ci siamo resi conto che il capitano altro non sapeva, quindi dopo averlo ringraziato siamo andati via. Hildesheim, un tipico ebreo con un profilo pecorino e il fez, era nel suo ufficio. I suoi interessi erano volti unicamente alla moneta e poiché spettava a noi dare il là, dopo un po' di mercanteggiamenti ci ha detto quello che sapeva. Un'informazione semplice che tuttavia è risultata importante. Egli aveva ricevuto una lettera da un certo signor De Ville di Londra, che gli diceva di ritirare, possibilmente prima dell'alba, onde evitare la dogana, una cassa che sarebbe arrivata a Galati a bordo della zarina Caterina. La cassa doveva essere poi consegnata a un tale Petrov Skinski, il quale era in rapporto con slovacchi che trafficavano sul fiume e nel porto. Il lavoro dell'ebreo era stato compensato con una banconota inglese che egli aveva regolarmente cambiato in oro alla Banca Internazionale del Danubio. Quando Skinsky era andato da lui, egli lo aveva accompagnato a bordo della nave, dove gli aveva dato in consegna la cassa per evitare spese di pacchinaggio. Questo era tutto quanto sapeva. Siamo andati allora a cercare Skinsky, senza però riuscire a rintracciarlo. Uno dei suoi vicini, che non sembrava nutrire neppure un'ombra di simpatia per lui, ci ha detto che si era assentato 2 giorni prima, ma nessuno sapeva dove. Questo ci è stato confermato dal suo padrone di casa, al quale un fattorino aveva recapitato la chiave di casa e l'affitto dovuto in moneta inglese la sera precedente, tra le 10 e le 11. Così eravamo di nuovo in un vicolo cieco. Mentre stavamo parlando, ecco arrivare di corsa un tizio, il quale balbetta ansimando che il corpo di Skinsky era stato trovato nell'interno del cimitero di San Pietro, con la gola squarciata come avrebbe potuto fare un animale feroce. La gente che stava chiacchierando si è precipitata a vedere l'orrendo spettacolo e le donne hanno gridato: «Questa è opera di uno slovacco!» Noi ce ne siamo andati in tutta fretta per timore di essere in qualche modo coinvolti nella faccenda e di conseguenza trattenuti. Memorandum di Mina Hacker, aggiunto al suo diario. Oggetto di indagine. Il problema del conte Dracula è di ritornare al suo posto. A. Deve esservi portato da qualcuno. Questo è evidente, perché se avesse il potere di muoversi a sua volontà, potrebbe spostarsi sotto forma di uomo, di lupo, di pipistrello o in qualche altro modo. È chiaro che teme di essere scoperto o impedito nello stato di impotenza in cui deve trovarsi, confinato dall'alba al tramonto nella sua cassa di legno. B. In che modo sarà portato? Qui può esserci utile un processo di eliminazione. Per strada? Per ferrovia? Per acqua? 1. Per strada. Le difficoltà sono infinite, specialmente nell'uscire da una città. A. C'è gente. La gente è curiosa, indaga. Un indizio, una supposizione, un dubbio su quello che la cassa può contenere significherebbero la sua fine. B. Vi sono o possono esservi controlli doganali e daziari da superare. C. I suoi inseguitori possono tenergli dietro. È questo il suo più grande timore, e per evitare di essere tradito ha respinto nei limiti delle sue possibilità perfino la sua vittima. Io. 2. Per ferrovia. Nessuno può incaricarsi della cassa. Si correrebbe il rischio di ritardi, e un ritardo può essere fatale quando si è inseguiti da nemici. Il conte, è vero, potrebbe fuggire di notte, ma che cosa gli capiterebbe se fosse lasciato in qualche posto straniero senza un rifugio in cui riparare? Questo non rientra certo nelle sue intenzioni. Egli non vuole correre rischi. 3. Per acqua. Questa è la via più sicura sotto un certo aspetto, ma sotto un altro la più pericolosa. Sull'acqua egli è impotente, tranne durante la notte e anche di notte. Può comandare soltanto alla nebbia, alla tempesta e alla neve, e ai suoi lupi. Ma se facesse naufragio, l'acqua corrente lo inghiottirebbe senza scampo ed egli sarebbe davvero perduto. Potrebbe fare accostare la nave alla riva, ma se si trattasse di un paese ostile, dove non fosse libero di muoversi, la sua situazione sarebbe disperata. Sappiamo dalla nostra documentazione che egli era sull'acqua, quindi adesso dobbiamo scoprire quale acqua. La prima cosa sta nell'accertarsi di quello che ha fatto finora. Allora potremo avere un'idea su quello che intende fare poi. In primo luogo occorre esaminare quale sia stato precisamente il suo comportamento a Londra come parte del suo piano d'azione generale e che cosa abbia fatto quando il tempo stringeva e si è trovato a dover fronteggiare la situazione come meglio poteva. In secondo luogo, dobbiamo scoprire, per quanto possiamo congetturare sulla base di quanto ci è noto, che cosa abbia fatto qui. Per quanto riguarda il primo punto, evidentemente la sua intenzione era di arrivare a Galati e ha spedito incartamenti a Varna allo scopo di trarci in inganno qualora avessimo appreso di quale mezzo si era servito per uscire dall'Inghilterra. Il suo unico urgente proposito era di fuggire, ne dà prova alla lettera di istruzione mandata a Manuel Hildesheim, in cui lo incaricava di prelevare la cassa e portarla via prima dell'alba. E ci sono anche le istruzioni a Petrov Skinsky, che possiamo soltanto supporre, ma certo c'è stata una lettera o qualche altro messaggio, dato che Skinsky è andato da Hildesheim. Sappiamo dunque che fino a qui il suo piano è riuscito. La zarina Caterina ha effettuato il viaggio a una velocità fenomenale, al punto da suscitare i sospetti del capitano Donaldson. Ma la sua superstizione, unita alla sua scaltrezza, ha fatto il gioco del conte ed egli, filando con il vento favorevole in mezzo alle nebbie e tutto quanto, è arrivato a Galati con gli occhi bendati. È stato dimostrato che il conte aveva organizzato tutto molto bene. Hildesheim si è fatto consegnare la cassa, l'ha scaricata e data a Skinsky. Skinsky l'ha presa e qui la traccia si perde. Sappiamo soltanto che la cassa sta viaggiando da qualche parte sull'acqua. La dogana e il dazio, se c'erano, sono stati evitati. Veniamo ora a quello che il conte deve avere fatto dopo il suo arrivo a Galati, sulla terraferma. La cassa è stata consegnata a Skinsky prima dell'alba. All'alba il conte può apparire nella sua forma umana. Qui viene fatto di domandarsi perché sia stato scelto proprio Skinsky per svolgere questo lavoro. Nel diario di mio marito, Skinsky è menzionato come un individuo che commercia con gli slovacchi che trafficano sul fiume e nel porto. C'è stata poi l'osservazione di quel tizio secondo cui il delitto era opera di uno slovacco, osservazione che dimostra i sentimenti generali verso questa razza. Il conte voleva rimanere isolato. Ecco le mie supposizioni. A Londra, il conte ha deciso di ritornare nel suo castello viaggiando per acqua, considerando che fosse questo il mezzo più sicuro e segreto. Era stato portato fuori dal castello da Szgany, i quali probabilmente avevano consegnato il carico a slovacchi, che si erano occupati di trasportare le casse a Varna, da dove erano state spedite a Londra per mare. Quindi il conte conosceva le persone che potevano rendergli questo servizio. Quando la cassa era sulla terra, prima dell'alba o dopo il tramonto, il conte ne è uscito, si è incontrato con Skinsky e gli ha spiegato in quale modo fare proseguire la cassa su qualche fiume. Quando questo è stato fatto, e il conte ha saputo che l'operazione era in corso, ha cancellato le sue tracce o ha creduto di farlo, uccidendo il suo agente. Ho studiato la carta e ho visto che per gli slovacchi i fiumi più agevoli da risalire sono il Prut e il Siret. Ho letto sul dattiloscritto che nella mia trance avevo sentito muggiti di armenti e acqua che scorreva all'altezza delle mie orecchie e scricchiolio di legno. Quindi il conte, nella sua cassa, era su un fiume, in un'imbarcazione scoperta, probabilmente spinta da remi o da pali, perché le sponde sono vicine e la barca naviga controcorrente. Questi suoni non si sentirebbero se seguisse la corrente. Naturalmente può darsi che il fiume non sia né il Prut né il Siret, ma forse potremmo fare qualche altra indagine. Dei due il più facilmente navigabile è il Prut, ma nel Siret, a fondo, si getta il Bistrica, che gira intorno a Passo Burgo. Quest'ansa è chiaramente la via d'acqua che più si avvicina a Castel Dracula.